Latte dolce, mi sentite? Latte dolce? Latte dolce, mi sentite? Qualcuno mi ascolta, zona latte dolce? Sì, avanti, chi è che schiaccia portante? Tu sì. No, sono di passaggio in zona latte dolce, era per una prova radio. E a tratti stai uscendo però, Sono in movimento, sono con la macchina. Ah, ecco, buonasera comunque, ci sei. Ah, ho visto che c'era la portante e ho dato un altro colpo io di portante e sei entrato tu, dai. Comunque, buonasera, ben sentito. Ciao, buonasera a te, io sono Fabrizio, è zona latte dolce, via Leoncavallo. Ma lontano sì. Dove c'è il campo sportivo del latte dolce? Ma è a tratti, ti sento. La parola non è completa, capito? Ah, ok, vabbè, sono in movimento per quello. Adesso sei arrivato bene. Perché adesso praticamente mi sto fermando, dai, mi sto fermando, sto parcheggiando. Ehi, tacco, vabbè, sono qua, dai. Vabbè, ma tu che zona sei del latte dolce? Non ho capito adesso. Sì che ti sento adesso. Ma che zona sei del latte dolce? Io sono Leoncavallo. Ah, ecco. Sì, allora siamo vicini. Però se camminando magari ci sento a tratti, capito? Non si capisce bene. Beh sì, con queste frequenze è così, purtroppo è così. Ok, adesso sei arrivato veramente bene, adesso è perfetta la radio. Ok, allora ti sei fermo, così è. Sì, adesso ho parcheggiato perché praticamente adesso sto andando qua da una mia zia che abita qui in zona e quindi niente, sto parcheggiando, dai. Eia, va bene adesso ci sei. Va bene. Comunque arrivi fortissimo anche tu, io ho avuto l'onore qualche volta di sentirti anche al centro di Sassari, zona alta, però caspita, arrivi proprio a palla, ma hai messo un'antenna esterna? Eia. Ma hai una radio piccola, un portatile? È portatile ciò. Caspita, riesci ad arrivare così bene? Ti sento bene, sì, caspita. Questa è un'antenna autocostruita, 60 centimetri, con un radialino. Ah, è vero, sì, perché praticamente... Ah, 60, perché più o meno su questa frequenza dovrebbe essere intorno... Allora, 16,32 sui 64-65 centimetri più o meno, Buonasera. Avanti, chi è? Ciao Giovanni, Luca, beh, com'è? Non c'è lo chef? Cazzo, non ti sento io. Chi è che ti sento? Allora, buonasera anche a te. Giuseppe, già lo senti che è vicino a te? Giuseppe, avanti. Dai, vi lascio la vostra conversazione perché io praticamente adesso faccio silenzio radio. Ok, dai, io sono entrato a salutarvi. Io Mario sto usando con l'antennino piccolo, dai, che sembra quanto un pollice, dai. E va bene, ho notato che riceve e trasmette bene. Va bene con l'antennino, vado bene, cazzo, cosa vuoi pretendere? Un attimino che mi sposto, vai. Dai, tanto sono entrato a salutarvi, dai Giovanni. Tu ma sto uscendo, ciao. Bene, saluto anche io. Buona serata. Ma tu sei in zona, arrivi fortissimo qua. Sei in zona? Io sono zona campo sportivo latte dolce. Ah, cavolo, siamo proprio a due passi allora. Io sono qua a Piazza dei Turi. Grazie, mi sta aspettando una risposta di Marina da prenderla. Eia. Adesso ho chiamato zia. No, non ho risposto, se non mi ha risposto. Eia. Vai in fretta a prendere la luce. Aspetta, sta guardando su WhatsApp. Ciao Gianmarco. Guarda. Luca sta guardando il telefonino se l'ha chiamato Marina. Giuseppe, chiuso hai? Giuseppe deve essere che ha chiuso. Non so come... Ma no. Via. Dai, sono a bui. Sta via a rompere le scatole. Dai, ci sentiamo penso domani. Se il tempo è buono, bene. Comunque oggi ho fatto un bel po' di ho fatto 5-6 kg. Ho visto sul telefonino, quello che erano al piatto. Boni, boni! Ma dove l'ha visto sul telefonino? Pascolato il cuccoi, grazie! No, su Facebook c'era la fotografia con ciò che il cuccoi va curendo in alto a un piatto, il telefonino, così ho capito io, L'ho rimesso dentro la rete, sono appiccato fuori nell'orto botanico. Appiccato? Ma occhio, c'è qualcuno con la canna della bizia, parli di chi vuole l'elicottero. Come ti fate a un tempo, che così la forse miro la caviglia fuori dalla canna. E tua madre, tu la decina, non acciappava la claviglia, ma con la cena acciappava lì. Se non era costumato, si buttava l'imbragnato. Si era lì, tutto pronto. E gli combinava l'imbrima, catta. Avviro. Aspetta che mi sono rilato e buva l'attimi, non ti raggiungi una via di bosso. Un plateau di pancetta scongelata in altro vacconi. È un plateau di bistecche di capocollo a scongelarsi. A casa di casa da pazzare non vera né una né l'altra, se si la pusciate la gurraccia. Bisogna stare attento pure a chi, si capito? Vabbè, ma la gurraccia può più da uno, due. Ma un retro lo passa, non è che ne consiglio un pezzo solo. L'ubrato in tre si sta pusciato, e la giuragato si arrata l'ubrato, la giubbotto a faccia solo in andato, da avanzare di tiro del razzo. Sia uno che l'altro. A caso sono andato a pigliare la testa in sera scongelenti. Non vera né un pacco né l'altro bacco, tutti e due blatto, è vera, un chilo di mazzetta e uno è un chilo di capocollo e l'altro, si tira in bucciata. Tentate, ci vedi che tirano, sapete che sappiamo in tutte di cucinare queste cose, allora aspetta, un bel tempo viene un vincevo, e così hanno fatto, Poi, Pino! Non fatto in tre, si sta cansato, saranno iniziati in due, spesso non era un azzurro, e si stanno buttando il plato, non hai compreso? Un chilo era la pazzetta e un chilo era il capocollo, buttando si stirano. Non devi mangiare più solo, no? Pure questi hanno fame, bisogna andare a mangiare affamati, capito? E di buco devi mangiare a carri. Vabbè, vi saluto, ciao Gio Maria, ciao Graziano, a domani. Ciao, a domani, salutami a Marina e poi da bravo. Ciao, ci sentiamo. Io sempre, lui ricambiato anche la parte sua, saluto anche a Paoletta. Ciao Gio Maria. Ciao, ricambiato, ok. Però Gio Maria, ava senta in avvicinarsi a chi sa che il vostro avvicina. Ma le gatte cosa fai? Ti tiri e te la moneta pure al russo. E ti mangi pure la etta. No, chi va, come se mi vede chi macciato, sta zitto. Allora... ma è attidentale però, Ma è avare butto a chi? Ava che arrivi un tempo buono, tiro la zanzariera, mi mettizzo e posso secchi, li butto. Pongo questa tenda tutta fiorita di pesci, mi metto in mezzo e li butto. Vai te. Vai. E si brucia di mettere un po' con fuibbi, Cazzo, come ci fate? La fava, cazzo. Dai, buccia che si mangiano lo vivretto, la buccia la sta attaccando il tutto. Te ne tonta, cazzo. Falli macchi. E un momento quando pigliavo un falegnameria con le colombe selvatiche e le tortore che le prendevo dentro il falegnameria, si arrabbraiano e rimanevano dritte e ne rirampava a terra. Da poi in casa, quando ripidivo, si prendeva un secchio, voleva buttare e da poi riusciva a rubare subito. Da poi rimassava, in parte va via, fa vette, piselli, ma La pasta a cupienti, piena di favette, piselli, fagiolo, fagiolino. La provincia, beh. È tutta roba che mangiavano lì negli orti, nei dintorni della falegnameria, era tutto orti lì. Per carità. E vai io, quando fa la campagna, no? Poco non mangiare gli atti. Beh, riesci a mandarti gli atti che ha per mangiaretti. E a chi no che andavo bisogno gli atti mangiare, non andare a rompere le catre in 4-5 curracci, fa fuggirsi dagli atti. A una sola buttini, così chi da macca, se si fugge e ne ripura in Romagna. Invece alle altre no, l'altro fatene mangiare come si può salvare, chi si avvicina si simbolano in tanto. E più di una volta ne ha pigliato una e l'ha fatto la vista alla iatta. Si tratterà di fare la vista alla iatta? Beh, una iatta marroncina, chi salirà che avvicinata bene le brinca la iatta in tanto, la grampa. La matta se la piglia e se la mangia. Un attimo, grazie. Eia. Sì, pure questo. Ho fatto palestra a portare il culo. Processione passende me. Non c'è Elu, Elu è uscito con la moglie. È vero. E allora se non lo picchia, oramai è fustito burueto. E oggi è venerdì, non lo sai. Circolino e karaoke. E allora se lo piglia a colpi anche, infatti non l'ha inteso, dici. Chi deve andare a pigliarla di no da voi, che la intende a ghiccia. Vuol dire è già sottomesso, fritto è mi Luca. Così è. A chi hai i pantaloni? E allora, Edu ridia dell'altro, a barri di muro di Edu. Oh boh, perso l'abbiamo, così è. Vabbè. Che ci vuoi fare? Ti ha mandato un messaggio, non l'hai visto? No, adesso lo guardo, aspetta, vedi, ecco, ho visto uno, vediamo, Graviglia, ma adesso... E allora, Gando, a me mi serve un'ora e mezzo pure. Ah, va, che accende, e poi che è buono, e se ne va. E tutte le cose, se fa se non sei messo in una maniera. Ma già è vero. No, ancora è presto. No, oggi io ho fatto il tosto e il risotto al zafferano. Buono, e anche il tosto, ma ci ho mangiato un poco di risotto e due tosti. Poi due albicocche e una fresca. E boh, così poco hai mangiato il pranzo. Oggi niente. Vabbè, poi mi ho mangiato due o tre rotelle di salsiccia, un pezzo di formaggio. Che ti deve tirare un significato, sì. Beh, mi mangi un poco di salsiccia. La frittata sulla tavola, un poco di pezzo di gaggio e anche un biculitato, un burro di vivi. E mi ha detto mia figliola, ma non ha detto che dovevi mangiare poco oggi. Ma lì stiamo che muoio simile, questa canna non si intende, pieno, no, mullemmo. Mi pare che va via a fame, allora mangio un biculitato così dopo. Già sta di avventa. Che c'è l'insulina che ti fa fare che scherzi, mi non lo sai. Mica ce l'avevo prima di pranzo, ce l'avevo 142. Non era alta. Oh, è ottima. Guarda, per un diabetico è ottima. 142 per me non è alta, né alta né bassa. Alta è la prima del biglietto di suo cortisone, 300, 400, cazzo. Eh sì, sale col cortisone, sale un bel. Per dire, oggi prima di mezz'ora e mezzo l'ho misurata la zia di mia moglie, che c'ha di non caffianca, che ne posso l'insulina, a chi non va buona essa. Pure ve lo fai vedere, mi ha detto non per ridice, vabbè. Allora tu mi la via, la glicemia, mezz'ora e mezzo, a 40 sì, me la sembra della dice, cazzo ma pure dici. Cazzo a 40 sì, mi la dice. Ma se ne sei mai nel cucciare di zucchero, è presa a buco. A me è capitata che è scesa così tanto. Ma io me ne accorgo che mi veniva trimureta, capito? Mi sento debole. E a 46, a 48, sì, è sceso anche a me così. Ma io me ne accorgo, io come me lo so se mi viene a tremurito, mi intendo ya, tutti i tracco mezzo assunito. Picco senza misurare, mi mangio due cucciarini di zucca. In giro di un quarto d'ora so questo rabbisco. Ma è meglio, dicono che è meglio, due fette biscottate. Capito, poi effetti biscottate, meglio dello zucchero, che da quello zucchero anda assimile, è un casino. Non ti credere, no. Ti metto un po' di marmellata e boom. Poi arriva a mezz'ora, allora ti mangi. Piatate. Aspetta un attimo, grazie, mi sembra stava entrando qualcuno. Abbatti che vuole entrare. Edu! Luca! Grazie, sono al fuoco, dimmi. Sono andato a fare l'insulina alla zia di Paoletto, là. A dopo, là. Schiama dopo. Eia, ok, a dopo, grazie. Eia. Attento, un po' triste.